credo che abbia ancora un potenziale enorme. Sì. Il problema suo è quello di una guida sicura, che di un programma ha, certo, no? E sì, di trovare l'allenatore giusto, perché può anche fare un risultato ancora all'Olimpiade, secondo me. Non credo che tra quattro anni possa vincere, però sicuramente battersi meglio di come ha fatto a Londra, sì. Ieri senza praticamente allenamenti, o ridotti molto gli allenamenti, è andata fortissimo, insomma. Sì. Quindi ci sono dei margini, il problema è la guida. E questo Lucas potrebbe essere la guida, però ci sono molte cose da risolvere. Primo fra tutto il fatto che lui non verrà mai in Italia, quindi lei deve andare all'estero. Sì. E io sul fatto che lei stia 3 anni a Narbonne, dopo che ha ritenuto Parigi non una città adatta alla sua permanenza, ecco, nutro dei dubbi su questo.